paio di ucciosi ci sono ogni fuori, ma è benzina, mai. Quanto costa? Tito Gotti. Deve essere il direttore musicale lì del teatro, uno dei boss. Vabbè, io l'ho trovato. Do you like to tell something to this girl? No, I... Okay. Non è che sia molto... Non è che abbia grandi cose da dire. È il silenzio, è la ricerca del silenzio. Certo. No, è un silenzio. Silence. Silenzio ho trovato. Sì, ma dove hai trovato il silenzio? A little bit, a poco. È riuscito molto a trovare furbo. Il silenzio? È riuscito, you can't to get the silence, to trovare, to find the silence. Can you find the silence here? Now we have it, son. Dice che adesso c'è del rumore. Ecco, il silenzio. And the silence, where do you think to find? Where do you think to find the silence? Here. Thank you. vita di questa avventura con te? La prima, la seconda, la terza? La prima. Guarda, che sei di fronte, c'è un responsabile. È un responsabile. Merveille. Ascolta, lei è un responsabile, si può ci con i romagnotti. Indossi, a sbaglia il cavallo. A pipè, ti passa il tappo a sé, vuoi essere un buon leader. Allora, che ti aspettavi da questo? Che ti aspettavi? Qualche cosa di simile o è un'avventura? Ma è una cosa che non l'ho visto. Come ti è venuto in mente? Conoscevi John Cage? Sì, quindi so che tira fuori anche dei balordi. Questa è un'idea balorda, bellissima. Le balorda equivale a bello. Sì, sì, bellissimo. E Morettina bella, vieni. Di un po' qual è la tua impressione questa sera qua? Di un po', di bel sole. Ma chi ti vuole sentire, non vedere? Cosa volevi vedere? Di dove sei? Di Bologna. Sei venuta da Bologna? Siamo andati a Bologna. Ma il rumore del treno? Come lo trovi? Sempre il solito? Sì. Ma te ne eri mai accorta che un treno faceva così il rumore? Non tanto. Grazie cara. Thank you. giornata intorno, piazza, tutto il giro, arrivano si stanca, delle registrazioni. fare comunque muoversi. Via, capo, via!